aveva di origine. Faccio una prova, tu parli, io faccio una prova. Aveva rivoluzionato tutto questo mondo della canapa. Poi posso dire tutto quello che voglio, non è che... No, voglio dire tutto quello che ho fatto, è veritiero però, eh. Poi devi pensare che io non sono fumatore, anche se per il passato qualche spinello insomma da ragazzi, ma per stupidaggine non ho mai... Questo non volevi dire, eh? Questo è quello che non volevi dire. Boh, la città, ci sta mettendo freddo, capo, dici. Cioè, ragazzi, che poi la pubblichi. Si c'è la manna.